Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? I capolavori dei maestri del Rinascimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. A grande richiesta, prorogata al 29 gennaio. palazzodiamanti.it. Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte. Traduzione di Monica Pareschi. Sono lontana da Thornfield. La mia casa, ora che finalmente ne ho una, è minuscola. Una stanzetta con le pareti imbiancate e il pavimento levigato, che contiene 4 sedie dipinte, un tavolo, un orologio e una credenza, 2 o 3 piatti e bicchieri, un servizio da tè in maiolica. Al piano superiore una camera grande quanto la cucina, con un letto d'abete e un cassettone, piccolo, ma non tanto da riempirlo tutto col mio povero guardaroba, il quale però, grazie alla gentilezza dei miei cari e generosi amici, si è accresciuto di un modesto assortimento di capi necessari. È sera. Ho congedato l'orfanella che mi aiuta nelle faccende domestiche, premiandola con un'arancia. Sono sola, seduta, davanti al focolare. Stamattina ha aperto la scuola del paese. Sono arrivate 20 scolare. Di queste solo 3 sanno leggere, nessuna sa scrivere o contare. Molte sanno lavorare a maglia e qualcuna cuce, un po'. Parlano con l'accento larghissimo tipico della zona. Per ora abbiamo qualche difficoltà a comprendere le rispettive lingue. Alcune sono maleducate, rozze, intrattabili, oltre che ignoranti. Ma altre sono docili, desiderose di apprendere e manifestano un'attitudine che mi piace. Non devo dimenticare che queste contadinelle malvestite sono fatte di carne e di sangue, esattamente come i rampolli delle famiglie più insigni. E che i germi innati dell'eccellenza, del gusto, dell'intelligenza e dei buoni sentimenti possono esistere nei loro cuori non meno che in quelli di nobili natali. Sarà mio dovere far crescere quei germi, e senza dubbio questo compito mi darà qualche felicità. Non mi aspetto grandi piaceri dalla vita che mi si apre dinanzi, ma se regolerò il mio spirito e mi impegnerò come devo, mi darà certamente abbastanza di che vivere giorno per giorno. Ero davvero gioiosa, tranquilla e soddisfatta durante le ore passate in quell'aula spoglia e umile stamattina e oggi pomeriggio. Per non ingannare me stessa devo rispondere no, mi sentivo piuttosto avvilita, mi sentivo, sì, stupida che non sono altro, mi sentivo degradata. Pensavo che forse ero scesa un gradino nella scala sociale invece di salire. Ero in preda a un pavido sgomento di fronte all'ignoranza, alla povertà e alla rozzezza di tutto quello che sentivo e vedevo intorno a me. Ma scusatemi se non mi detestano e mi disprezzo troppo per questi sentimenti. Sono sbagliati, lo so, ma saperlo è un gran passo avanti. Mi sforzerò di superarli e confido che domani me li sarò lasciati alle spalle, almeno in parte. Forse tra poche settimane saranno svaniti, ed è possibile che tra qualche mese la felicità che proverò nel vedere i progressi fatti e i miglioramenti delle mie scolare cambierà il disappunto in compiacimento. Frattanto mi pongo solo una domanda: che cosa sarebbe stato meglio? Essersi arresa alla tentazione, aver dato ascolto alla passione e non aver lottato, ma essere caduta in una trappola di seta e addormentata sui fiori che la coprivano per svegliarsi in un clima caldo tra i lussi di una villa di vacanza e trovarsi a vivere in Francia come amante di Rochester, in un delirio d'amore per la metà del tempo, perché lui sì, mi avrebbe amato molto per un po'. Lui mi ha amato. Nessuno mi amerà più così. Mai più conoscerò il dolce tributo reso alla bellezza, alla gioventù, alla grazia. Nessun altro scorgerà in me queste doti. Era pieno di affetto e di orgoglio per me. Nessun altro uomo lo sarà mai. Ma dove vado a smarrirmi? Che cosa dico e soprattutto cosa provo? È meglio essere schiava a Marsiglia nel mondo della luna, in preda alla beata febbre illusoria di un'ora, per poi l'ora dopo soffocare tra le più amare lacrime di rimorso e vergogna, o fare la maestra di paese, libera e onesta, in un fresco angolino tra i monti nel cuore dell'Inghilterra? Sì, ora sento che ho fatto bene ad attenermi ai principi morali e alla legge, respingendo e schiacciando i folli impulsi di un momento. Dio mi ha guidata nella scelta giusta e per questo ringrazio la sua provvidenza. Giunto a questo punto delle mie meditazioni serali, mi alzai. Andai alla porta e mi misi a guardare il tramonto del giorno di mietitura. I campi tranquilli davanti alla mia casetta che, insieme alla scuola, distava mezzo miglio dal paese. Il canto degli uccelli si andava spegnendo. Guardando tutto ciò, credevo di essere felice e mi sorprese poco dopo scoprirmi a piangere. Perché? Per il destino che mi aveva strappata al mio padrone, per colui che ero destinata a non vedere più, per la disperazione e l'ira fatale che forse ora lo trascinavano lontano dalla retta via, troppo lontano per sperare di tornarci alla fine. Continuavo a lavorare nella scuola del paese, mettendoci tutta la cura e le energie che avevo. Doveva trascorrere un po' di tempo prima che con molti sforzi riuscissi a capire il carattere delle mie scolare. Del tutto digiune delle nozioni più semplici, ma quando ebbero superato lo stupore per la mia persona, il mio modo di esprimermi, le mie regole, i miei modi, scoprii che in alcune di queste campagnole dall'aria tonta si destava un'intelligenza piuttosto viva. Molte si mostrarono premurose, perfino affettuose, e fra loro trovai non pochi esempi di naturale cortesia e innato amor proprio, oltre a eccellenti capacità che si guadagnarono la mia simpatia e ammirazione. Queste ragazze cominciarono presto a trarre piacere nel far bene il proprio lavoro, nel tenersi pulite in ordine, nel fare regolarmente i compiti, nell'acquisire modi tranquilli e disciplinati. In certi casi progredivano a una velocità addirittura sorprendente e io ne provavo un orgoglio onesto e soddisfatto. Inoltre, io e alcune delle ragazze migliori cominciamo ad apprezzarci a vicenda su un piano personale. Tra le mie allieve c'erano diverse figlie di contadini, quasi donne fatte, sapevano già leggere, scrivere e cucire. A loro insegnavo i rudimenti della grammatica, della geografia, della storia e i lavori di cucito più fini. Trovai tra loro persone di valore, desiderose di conoscere e incline a migliorarsi, e con queste passai molte serate gradevoli nelle loro case. I genitori in quelle occasioni mi riempivano di attenzioni. Era un piacere accettare la loro semplice gentilezza. Sentivo di essere diventata la beniamina del vicinato. Ogni volta che uscivo tutti mi salutavano cordialmente e mi accoglievano con sorrisi amichevoli. In quel periodo della mia vita, il cuore mi si gonfiava di gratitudine molto più spesso di quanto cedesse all'abbattimento. Tuttavia, lettore mio, a dirla tutta, nel bel mezzo di questa calma, di questa esistenza operosa, dopo una giornata onorevole trascorsa a faticare tra le mie allieve e una serata passata a disegnare tranquilla o a leggere da sola, di notte mi visitavano sogni strani, turbamenti, tempeste, sogni in cui, tra scenari insoliti e carichi di avventura, pieni di rischi inquietanti e romantiche possibilità, continuavo ogni volta incontrare Rochester, sempre in una situazione critica ed emozionante. E poi la sensazione di trovarmi tra le sue braccia, udire la sua voce, incontrare il suo sguardo, toccargli la mano e la guancia, amarlo, essere amata da lui. Quando, qualche tempo dopo, da Madeira giunse l'eredità di mio zio, si approssimava il periodo delle vacanze. Chiusi la scuola di Morton dove lavoravo e il mio congedo non poteva certo essere freddo e distaccato. Mi alzai all'alba e per un paio d'ore fui occupato a sistemare le mie cose nella camera, nei cassetti e nell'armadio, esattamente come avrei desiderato lasciarle durante una breve assenza. Il cielo del mattino era coperto e l'aria gelida. La pioggia batteva forte sui vetri. Mancavano ancora 2 ore alla colazione. Occupai quel tempo girellando per la mia stanza e ripensando alla visita che aveva fatto prendere quella piega ai miei progetti. Ripensai alla sensazione che avevo provato nel mio intimo. Sì, riuscivo a rievocarla in tutta la sua indicibile stranezza. Ricordai la voce che avevo udito. Ancora mi meravigliai non meno vanamente di prima. Sembrava dentro di me, non nel mondo esterno. Era solo un'impressione di nervi, mi chiesi, un'illusione. Non riuscivo a concepirlo o a crederlo. Era più simile a un'ispirazione. La sensazione sconvolgente era arrivata come un terremoto che scuote le fondamenta della prigione di Paolo e Sila. Aveva aperto la porta della cella dell'anima, aveva sciolto le catene, l'aveva destata dal suo sonno. Ed essa era schizzata fuori, tremante, in ascolto, atterrita. Poi aveva fatto vibrare 3 volte un grido nel mio orecchio stupito e nel mio cuore scosso e in tutto il mio spirito che non aveva avuto timore né brividi ma aveva esultato come per la gioia di aver coronato uno sforzo che aveva avuto il privilegio di compiere, libero dall'impaccio del corpo. Tra pochi giorni, dissi alla fine delle mie meditazioni, saprò qualcosa dell'uomo che sembrava chiamarmi ieri sera. Il viaggio durò 36 ore. Ero partita un martedì pomeriggio. E il giovedì mattina, presto, la carrozza si fermò per abbeverare i cavalli presso una locanda lungo la strada. Tra siepi verdi, campi spaziosi, basse colline tenute a pascolo che mi apparvero come i lineamenti di un volto un tempo familiare. Sì, conoscevo il carattere di quel paesaggio. Eravamo certo vicini alla mia destinazione. «Quanto manca a Thornfield?» domandai allo stagliere. «Solo 2 miglia, signora, è là, passati quei campi». «Il mio viaggio è finito», pensai tra me. Scesi dalla vettura. Affidai allo stagliere una cassetta che avevo portato con me, da conservare finché non l'avessi richiesta. Pagai la tariffa, il vetturino fu soddisfatto e io mi misi in cammino. Il sole, sempre più luminoso, brillava sull'insegna della locanda e io lessi, in lettere dorate, «The Rochester Arms». Il cuore mi balzò in gola. Ero già sulle terre del mio signore. Il cuore ripiombò giù, schiacciato dal pensiero «Forse il tuo signore si trova al di là della manica, per quanto ne sai. E se invece a Thornfield, chi ci sarà a tenergli compagnia?» «La moglie è pazza e tu non c'entri niente con lui. Non osare parlargli o cercare la sua presenza. La tua fatica è sprecata. Meglio che tu non vada oltre», ammoniva la voce. «Chiedi informazioni alla locanda. Possono dirti tutto quello che ti serve sapere e risolvere tutti i tuoi dubbi in una sola volta. Vada a quell'uomo e chiedi se il signor Rochester è a casa». Era un suggerimento sensato, eppure non riuscivo a metterlo in pratica. Mi terrorizzava l'idea di una risposta che mi avrebbe gettata nella disperazione. Prolungare il dubbio significava prolungare la speranza. Avrei forse potuto vedere ancora una volta la grande casa sotto il raggio della sua stella. Davanti a me c'era il muricciolo. Quegli stessi campi che avevo attraversato correndo, cieca, sorda, pazza di furia vendicativa il mattino della mia fuga da Thornfield, prima ancora di aver deciso come mi sarei comportata, mi ci ritrovai in mezzo. Come camminavo veloce, come correvo a tratti, come ero ansiosa di scorgere finalmente il bosco ben noto. Che sensazioni provai nel riconoscere i primi alberi e nel vedere apparire il prato e il colle che li separava. Un piacere strano mi ispirava. Mi affrettai a procedere. Un altro campo attraversato, un sentiero percorso, ed ecco le mura della corte. I locali di servizio sul retro. La casa vera e propria era ancora nascosta dal nugolo di uccelli. Vedrò per prima cosa la facciata, decisi, dove le merlature ardite e vistose colpiranno subito l'occhio e dove potrò distinguere la finestra della stanza del mio signore. Forse lui sarà lì. Si alza presto. Forse ora sta passeggiando nel frutteto davanti a casa. Potessi vederlo un momento solo. Certo non sarei così pazza in tal caso da corrergli incontro. Non lo so, non ne sono sicura. E se così fosse, allora... Dio lo benedica, allora forse qualcuno ne avrebbe del danno se io assaggiassi ancora una volta la vita che il suo sguardo può regalarmi. Avevo costeggiato il muro basso del frutteto e svoltato l'angolo. Lì c'era subito un cancello che si apriva sul prato tra due colonne sormontate da sfere di pietra. Stando dietro una delle colonne, potevo agevolmente sbirciare tutta la facciata del palazzo. Sporsi la testa con precauzione per controllare se gli scuri alle finestre di qualche camera da letto fossero ancora accostati. Merlature, finestre, lampi a facciata. Da quel nascondiglio avevo tutto sotto controllo. Una sbirciatina, poi una lunga occhiata. Quindi mi allontanai dal mio nascondiglio per avventurarmi sul prato. E davanti al gran palazzo mi bloccai all'improvviso, indirizzandovi uno sguardo prolungato e spavaldo. Con gioia timorosa guardai verso un'imponente dimora. Vidi un rudere annerito. Non occorreva davvero nascondersi dietro la colonna del cancello, né sbirciare le vetrate delle stanze temendo che dietro di esse si agitasse la vita. Non occorreva stare in ascolto in attesa di una porta che si aprisse, immaginare passi sul selciato, sul sentiero ghiaioso. Il prato e il terreno erano abbandonati in rovina, il portale era una bocca spalancata e vuota, la facciata appariva come l'avevo vista una volta in sogno, nient'altro che un muro simile a quello di un pozzo, altissimo e fragilissimo, crivellato da finestre senza vetri, e intorno aleggiava un silenzio di morte, la solitudine di un paesaggio desolato. Non c'era da stupirsi che le lettere spedite a questo indirizzo non avessero mai avuto risposta, tanto valeva fare capitare la corrispondenza a una tomba nella navata di una chiesa. Il nero cupo delle pietre spiegava come Thornfield era andata distrutta. Un grande incendio. Ma com'era scoppiato? Qual era la storia legata a quel disastro? Quali perdite ne erano derivate? Erano state distrutte delle vite oltre alla proprietà? Se sì, quali? Domanda terribile. Lì non c'era nessuno a rispondere. Neppure un segnale muto, un simbolo silenzioso. Bisognava dare risposta a quelle domande e non potevo che trovarla alla locanda e fu lì che tornai poco dopo. Fu il locandiere in persona a servirmi la colazione nella saletta. Gli chiesi di chiudere la porta e sedersi. Avevo qualche domanda da porgli. Mi accontentò, ma io non sapevo da che parte cominciare. Le risposte che avrebbe potuto darmi mi terrorizzavano, eppure la scena desolante che avevo appena abbandonato mi preparava, in certa misura, a una storia dolorosa. Il locandiere era un uomo di mezza età, di aspetto rispettabile. «Naturalmente conoscete Thornfield», riuscì a dire infine. «Sì, signora, un tempo vivevo lì». «Davvero?» «Non ai miei tempi, pensai, non vi conosco». Ero il maggiordomo del compianto signor Rochester, aggiunse. Compianto. Ecco che mi arrivava in pieno il colpo che avevo cercato di evitare. Il compianto, esclamai, è morto. No, parlo del padre dell'attuale proprietario, il padre del signor Edward. E il signor Edward? Povero signor Edward, esclamò. Non avrei mai pensato una cosa del genere. Certi dicono che è stata la giusta punizione per aver tenuto segreto il suo primo matrimonio e aver voluto prendere un'altra moglie mentre ne aveva una ancora in vita. Ma io, per conto mio, lo compatisco. Ma è vivo, avete detto, esclamai. Sì, sì, è vivo, ma molti pensano che sarebbe meglio se fosse morto. Perché? Come? Mi si stava nuovamente gelando il sangue. Dov'è? Domandai. È in Inghilterra. Certo, certo è in Inghilterra. Vive a Ferndean. Non può lasciare l'Inghilterra, credo. Non potrà più muoversi di qui ormai. È diventato cieco, disse infine. Sì, il signor Edward è completamente cieco. La residenza di Ferndean era un edificio piuttosto antico, non troppo grande e senza pretese architettoniche, completamente immerso in un bosco. Sapevo della sua esistenza. Rochester ne parlava spesso e a volte ci andava. Suo padre aveva acquistato la proprietà perché era ricca di selvaggina. Avrebbe voluto affittare la casa, ma non aveva trovato inquilini perché il luogo era inadatto e malsano. Di conseguenza, Ferndean era rimasta disabitata e senza mobilia, a eccezione di due o tre stanze allestite per ospitare il proprietario durante la stagione di caccia. Finalmente giunsi davanti alla casa. «Può esserci vita qui?» mi domandai. «Sì, qualche forma di vita in realtà c'era. Infatti udii muoversi qualcosa». La stretta porta si stava schiudendo e dalla casa stava spuntando una sagoma. La porta si aprì lentamente. Era proprio lui, il mio signore, Edward Rochester. Scese l'unico gradino e avanzò lentamente, a tentoni. Dov'era finito il suo passo audace? Poi si fermò, come se non sapesse da che parte girarsi. Sollevò una mano, aprì le palpebre, alzò lo sguardo vuoto a fatica verso il cielo. Si capiva guardandolo che per lui tutto era vuota oscurità. Mi avvicinai. Pilot mi riconobbe. «Cosa succede?» si informò lui. «Pilot, giù!» dissi. «Mary, siete voi?» Lui allungò in fretta la mano, ma non vedendo dove mi trovavo non riuscì a toccarmi. «Chi è? Chi è?» domandò, come se cercasse di vedere con quegli occhi spenti. «Rispondi, parla ancora!» ordinò con voce forte e imperiosa. «Chi sta parlando?» «Pilot mi riconosce e John e Mary sanno che sono qui. Sono arrivata soltanto stasera», risposi. «Sto vaneggiando. Che dolce follia mi ha preso!» «Non vaneggiate, nessuna follia.» «E dov'è colei che parla? Lasciate che vi tocchi con le mani o non potrò più vivere!» Mi cercò a tastoni. Fermai la sua mano errante e la imprigionai nelle mie. La mano vigorosa si sottrasse alla mia presa. Mi afferrò il braccio, la spalla, il collo, la vita. Mi ritrovai avviluppata, stretta a lui.